Ringrazio tantissimo Mariolina Ragnoni Frenkel e la signora Silvana Silvestri, ecco, che hanno aderito così all'iniziativa e si prestano questa sera a presentare il libro appunto di Mariolina Frenkel Ragnoni, che ho letto la prima volta che me l'ha dato e mi sono anche commossa, devo dirlo, perché è stato molto bello, piacevole, ma ha toccato anche nel mio caso alcune corde e mi ha veramente commosso. Si anche lei quando le legge. Sì, ma le credo. Se dovessi leggere io andreste tutti in barca. Ecco, allora. Sono felice di poter presentare, per la gentilezza della nostra cara direttrice della biblioteca. Ma sì, è una piccola biblioteca, comunque noi stiamo raccogliendo la documentazione del territorio, abbiamo ambizioni anche di lavorare su alcuni settori più ampi come quello della storia, della geopolitica e di altre così discipline, e al momento quello che vedete esposto su questi scaffali che abbiamo spostato per l'occasione, perché altrimenti sono qui in mezzo a questa sala, è solamente un quinto, il resto è in un magazzino qui vicino, per cui quando serve qualcosa noi ci richiamo, andiamo a prenderlo e torniamo indietro. Ad ogni occasione chiediamo anche gentilmente di iscrivervi alla biblioteca in maniera tale che è un'operazione semplice, si compila un modulo e basta, ma per noi è importante perché questo fa sì che questo servizio pubblico possa crescere, possa diffondersi e conoscere e avere degli utenti sempre nuovi e farsi anche conoscere. Ecco, io cedo volentieri subito la parola alle nostre due ospiti, che ringrazio ancora e vi auguro una buona serata. Grazie. La bellissima e gentilissima Valeria Trevisi. Io, come avete sentito, la prima poesia l'ho scritta a 8 anni. Ero una bambina timida come un topolino, che non dicevo mai niente, e a un certo punto mi sono messa a scrivere poesie. E la gente si è un po' stupita e ha detto: guarda lì, non è così stupida come sembra, sta sempre zitta e non è così stupida come sembra. E poi alla fine ci sono stati molti intervalli in cui non ho scritto, e poi quando ho visto che mio marito era tanto entusiasta delle mie poesie, ho ricominciato a scrivere per lui. E in questo libro ho ripescato anche delle poesie scritte tanto tempo fa, quando ero ragazza. Ci sono anche ricordi di gioventù, di qualche amore che c'è stato. Ma lui non è geloso. Come no? Gelosissimo. Poi nella autorizzazione ho scritto che appunto la vita, quando si diventa nonna, la vita ricomincia da capo, e quando guardo la mia nipotina, che è identica a mia figlia alla sua età, mi domando se sono sua madre o sua nonna. Non capisco più, io capisco più che se sono sua madre come sua nonna. Praticamente è come se avessi avuto 3 gemelli, quando sono nati i gemelli Alessandro ed Eugenio, Cristina aveva appena 20 mesi. Alla prima figlia ero troppo inesperta e timorosa, i secondi erano 2. Quando finalmente ho avuto diritto al titolo altamente onorifico di nonna, che avevo tanto aspettato, per la prima volta mi sono veramente goduta un bimbo piccolo. Quando ho avuto in braccio la mia prima nipote, leggera come un uccellino, ho capito che la mia vita aveva un nuovo inizio, con emozioni e gioie ormai dimenticate. Ho pensato alla mia indimenticabile nonnella, ma non posso andare avanti se non... Allora, finisco io questa presentazione. Sì, che bella. Quando ho avuto in braccio la mia prima nipote, leggera come un uccellino, ho capito che la mia vita aveva un nuovo inizio, con emozioni e gioie ormai dimenticate. Ho pensato alla mia indimenticabile nonna Elda, che dopo molti lutti e dolori, quando le è stato messo in braccio il primo nipote, ha esclamato: «Questa è la risurrezione della nonna!» Riflettano quelle femmine folli che pensano che diventare nonna sia l'inizio della vecchiaia e che arrivano persino a rifiutare questo trionfale appellativo nonna, mentre invece è un elisir di giovinezza, è l'inizio di una vita nuova come il bimbo che ci viene donato ogni volta che il giorno si ripete. L'abbiamo già letta. Andiamo alla seconda che era in programma. Cioè l'annuncio? Ma quella l'ho già letta io. Ma Ale ma l'ho letta. No, ma l'hai letta. Ah, l'hai letta là. Sì, sì, allora leggi questa. Annuncio. La vita che si sveglia, la vita che fiorisce, la vita che cinguetta, che canta, che balbetta. Occhio che s'apre al mondo, manina che ti stringe il dito e ti conquista per sempre, ed il piedino tenero da baciare, impaziente di andare, uno spirito in boccio, ogni giorno più desto, e dire che vivrò ancora tutto questo. Il futuro. Occhi grandi, curiosi, di un misterioso grigio, cosa vi piacerà nel corso di una vita? Piccola bocca arcuata sul callo del succhiotto, che parole dirai nel corso di una vita? Piccole mani forti, già tese ad afferrare, cosa conquisterete nel corso di una vita? Piedini sempre in moto, impaziente di andare, che strada sceglierete nel corso di una vita? Chini sul tuo mistero, che possiamo sperare, almeno per un poco, poterti accompagnare. Date un colpo sotto al cuore. Enrico, piccola vita tenace, sai che ti aspetta il sole, il latte in care braccia, una barca e una culla, il campo e gli uccellini, e ti aspetta l'amore, grande, da cui sei nato, che nei fragili rami delle tue vene avrà forza, gioia e calore per tutta la tua vita. Ma prima leggiamo tutto. Emanuele, il bimbo biondo, incerto, trotterella sulle gambette ancora non sicure, sul suo percorso aspettano avventure su cui spalanca le sue luci azzurre. Quando incontra i tuoi occhi, ti sorride, offrendo la sua gioia come un sole. È bello, non è vero? E poi domani sarà ancora più bello? Correrò, giocherò, le guance accese e gli occhi in festa. Troverò due braccia per levarmi in trionfo verso il sole. Prima tutto e poi... Sì, non battete le mani. Così si rompe la atmosfera. Silvia, la ragazzina dei capelli lunghi, frangia di seta al vento della corsa, scoiattolo sull'albero e capretto sul prato, pisciolino nell'onda, gelsomino al balcone, porta in giro con sé, col suo passo di danza, una parte di me, una parte di te. Prime frasi. Sul sentiero assolato dei tuoi passi di bimbo, raccogli le parole come le margherite. Dopo le metti insieme, come si fa coi fiori, corri incontro al sorriso di chi ti sta vicino ed offri a tutti freschi mazzetti di parole. preghiera al bambino Gesù, a te che sei nato per tutti noi, rivolgo la mia preghiera con l'immensa tenerezza che provo per tutti i bimbi piccoli. Ti tendo le braccia, come le ho tese ai miei figli e ai miei nipoti, per ricevere e custodire qualcosa di infinitamente prezioso. Bambino, di luce e di amore, facci crescere con te in sapienza e in grazia nella vita divina che tu ci hai portato. Conserva in noi quell'infanzia spirituale che Dio tanto ama. Puoi leggere magnifica anche? Sì. Sì, ce l'ho. Sì, sì. Magnifica. Per la piccola Silvia che si sveglia cantando, per Enrico che ride mentre ti vola in braccio e per l'altro che bussa al grembo di sua madre, per i miei figli, tutti così diversi e tutti per me meravigliosi, che riempiono la vita dei loro genitori con i loro vari modi di vivere la loro, per gli amati compagni che stanno loro accanto, per le lacrime, il riso e per il batticuore e per il grande amore da cui tutto proviene, per la mano che stringo proseguendo la via ove mi guida il cuore. Ti ringrazio, Signore. Una pausa. Una pausa per il pianto, per il pianterello. Cosa vuoi leggere dopo? Cristina. 18. Cristina, snella, graziosa, pianta traboccante di vita e della nostra vita, vivace ape dorata che ci ronza l'orecchio, ho da fare, presto, presto si vive. Se il frutto è come l'albero, come dice il Vangelo, con emozione lieta aspettiamo il raccolto. All'università. Il dovere ti chiama da una parte, la gioventù dall'altra. Sei leale e ti immergi nei calcoli più astrusi. Ecco i dati. I tuoi anni, 22. Le difficili prove scritte orali, il telefono della bella bionda e i 6 giorni che mancano all'esame. Con tanta vita che ti chiama intorno, che farai? Credo ciò che tutti fanno. Addossandoti il peso della vita, farai carriera. La tua grazia acerba che passava in un volo, in gridi e risa, sarà il passo di un uomo che riflette, che prevede, provvede e si ricorda solo ogni tanto dei suoi giorni a latti. Adolescenza, dalla tua lenta crisalide spunta il capino patetico della farfalla futura. Ti guardo fiduciosa negli smaglianti colori delle tue ali a venire, nei fiori variopinti della tua piena stagione. Gioielli. I gioielli. Allontana nell'ombra i ricordi penosi. Apri ed innalza al sole lo scrigno dei gioielli. L'amore per mia madre che avevo da bambina. I giochi fantasiosi col fratellino biondo. Margherite d'aprile coperte e riscoperte da un broccato da sposa. E la fonte aretusa coi papiri. Il primo movimento del bambino nel grembo. Per tua grazia, Signore, l'elenco è molto lungo, ma tu mi eri vicino e ti ricordi tutto. Per tua grazia, Signore, svapora l'amarezza e la gioia rimane. Il sole sorge ancora sulla tua anziana serva e su quelli che ama. Il senso della vita è uno scambio d'amore. Ho capito. Ma sono io che devo leggere. Capito Mariolina? Tu non c'entri, sono io che le leggo bene. Ah oh, sì, è giusto. Attese. Una vita di donna ha tanti spazi di silenzio e attesa, quando i minuti sono come sabbia che scende troppo lenta, per l'orecchio proteso verso un passo che tarda a risuonare. L'ultima attesa è quella nella quale si aspetta solamente che siamo noi a passare. Compleanno. 29. Mariolina adesso. 34. Prendo l'altro libro. Se chi legge ancora compleanno da quel libro lì. Sì, ci sta. E la perdi sempre. Compleanno. Sì. I miei occhi non sono più quelli che ti hanno incantato. Il mio corpo non è ormai più quello che ti ha deliziato. Ma si invecchia soltanto di fuori. E amore ed allegria non hanno disertato. Sono sempre tua moglie, una fanciulla sotto mentite spoglie. Molto mentite. Quella di vuoi leggere una dell'altro libro? Sì, dopo ci allegriamo un po' con i sonetti romanzeschi. A lei ha le sue preferenze. Sentite, sinite Pabulos, l'hai nascosto ai sapienti e l'hai detto ai bambini. Cerchi pagine intatte nella mente e nel cuore, pagine senza macchia, senza cancellature, e ci scrivi il tuo nome come l'inizio di una bella storia. Vicolo cieco. Mi soffoca l'intrico della vita. Come il cervo non posso più fuggire. Oh, spazi illimitati, corse simili al volo, forse vi troverò soltanto in sogno, seppure sognerò. Non vedo luci, non sento parole, non mi chiama nessuno. Nello specchio la morte ha già segnato con un tocco di grigio i miei capelli. Ipocrita. Sono tutti grigi. Smarrimento. Adesso questo è proprio per te. Cosa vuoi che ti dica? Per te ho riso, ho danzato, ho recitato versi, nei modi più diversi ti ho detto che t'amavo. Ma i giorni sono tanti e reinventarsi è duro e cresce intanto il muro che divide dagli altri. Vedo giorni perduti, vedo fiori appassiti e sale dal mio cuore soltanto una parola: non mi lasciare sola. Brava Maria. Per tirare un po' sull'atmosfera, leggiamo un sonetto romanesco. Ecco. E nozze d'argento. Sì, ma poi ti commuovi di nuovo. Ma no, per questo non mi commuovo, questo fa ridere. Sì, sì. Però io non ce l'ho, ce l'hai tu lì, strega. No. Sì, ah, sì. Quel libro lì. Ma in fondo? Qual è il primo e il secondo? Quel libro lì. Nel questo qua. Sì. Ah, poi lo so anche a memoria. No, meglio che lo leggi. Piano e forte. È un matrimonio, sora fortunata. È un cocomero che si compra intero. Può essere rosso, sugoso, sincero, e può essere bianco e sciapo e sei fregata. Da Socrate filosofo se impara quante santippe ci sono state al mondo, e viceversa, la fa un girotonno di degnate biastime a centinara. Ma se dolce, rosso con mare e dolce assai, che ti fa tornare sempre l'appetito, e mangi e mangi e non ti stufi mai. A vedi sta signora col marito, dopo tant'anni, poi di che lo sai, ecco come ero loro, come è uscito. Adesso anche il marito, è il marito studioso. Un altro sonetto. È il marito studioso. Come ve lo dice sora sposa, non c'è sta proprio da restare di stucco. Voi lo sapete, mio marito è crucco, er flicchete, er dovere, prima cosa. Così sta sui libri, legge e scrive, poi ci fa notte, poi ci fa mattina, ci gira, ci rigiva, ci intorcina. Voi me la dite, ma che questo è vive? Io ci sformo con mare, manca dillo. Ma con tutto che retico, magari ho cercato semmai di convertirlo a un tanto dei frascati e dei cagnara, che sta sempre a combattere col cavillo, finisce che se schiatta o ci si spalla. Allora devo dire una cosa, io questi libri li vendo per beneficenza, per una radio per bambini che si chiama Radio Magica, che verrà inaugurata al Festival dell'Innovazione a settembre qui a Bolzano. Uh-huh. E questa è una radio per internet che è per l'informazione dei bambini, per parlargli di musica, di letteratura, di poesie, tutte queste cose, e si rivolge in modo particolare ai bambini che hanno bisogno di qualcosa di più, che hanno i bambini che hanno un po' di difficoltà. E quindi io soprattutto l'ho fatto come nonna questa cosa, e vi offro in vendita questi libri a 15 euro.